Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, talenti in fuga, vecchia storia. Questo è il curioso ma suggestivo titolo del concerto composto dal nostro ascoltatore nonché musicista Davide Nicolosi, di cui state ascoltando un passaggio. È anche una vecchia e insoluta storia quella dei giovani che contano sempre troppo poco in Italia, come conferma la frase della settimana copyright del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un aspetto cruciale è rappresentato dal superamento della presente condizione di diffusa sottoutilizzazione delle capacità di lavoro e di innovazione delle giovani generazioni, le cui energie sono indispensabili per un processo di duratura crescita, così Napolitano. Energie che, ci spiace notare, sempre di più emigrano, in tutti i settori, davvero, in tutti i settori. In Cina c'è futuro perché la Cina è un paese giovane, l'Italia non è un paese per giovani. In Cina gli espatriati che decidono di tornare dopo gli studi all'estero hanno uno stipendio molto alto e maggiori possibilità di carriera. Alberto Sanseverino, 30 anni, è scenografo e direttore creativo a Shanghai. Tra poco ascolteremo la sua storia. Prima però un'altra storia di rientro in Italia, in questo agosto che abbiamo voluto dedicare a chi ha avviato un personale percorso di controesodo in direzione della penisola. Oggi tocca alla storia di Alessia Berti, che abbiamo incontrato a marzo. Alessia è una giovane imprenditrice controesodata dalla Gran Bretagna, grazie al bando Welcome Talent Business del Comune di Milano, per avviare una propria attività nel settore della formazione. Alessia ci ha raccontato la sua scommessa imprenditoriale. Perché puntare ora sull'Italia? Sentiamo. Milanese, trasformi la tua passione per teatro e storia dell'arte in una laurea in lettere, indirizzo storia dell'arte a Pavia, Erasmus a Manchester. Al rientro in Italia comincia a lavorare presso fondazioni e compagnie teatrali, poi approdi come stagista all'ambasciata di Washington. Tutte queste esperienze ti hanno aiutato a trovare lavoro o opportunità al tuo rientro in Italia? Devo dire che proprio quando sono tornata dall'ambasciata di Washington, pensando che l'esperienza negli Stati Uniti mi avrebbe aperto tutte le strade possibili, ho affrontato uno dei periodi più difficili della mia vita. 6 mesi senza trovare lavoro, solo piccole collaborazioni, e a quel punto ho deciso di ricominciare a studiare e prendere un master in risorse umane. Parti per la Gran Bretagna, è l'autunno del 2008. Vogliamo dire quanto tempo ci hai messo per trovare lavoro presso Guess UK e come nei 4 anni successivi la tua crescita è stata esponenziale? Sono arrivata a Londra il 4 settembre del 2008. Giovedì 16 settembre ero seduta alla scrivania di Guess UK facendo training per la mia nuova posizione in azienda. Quindi 10 giorni ci ho impiegato a trovare lavoro in Inghilterra. E da lì davvero è partita una crescita molto rapida, prima come assistente personale, poi sono diventata assistente HR e poi alla fine del mio percorso sono uscita dall'azienda come HR manager. E attenzione, infatti, a questo punto un anno fa decidi di prenderti una pausa, basta col posto fisso, serve una strada diversa. Nei mesi immediatamente successivi il Comune di Milano lancia il bando Welcome Talent Business, tutti candidi. Qual è l'idea alla base del tuo progetto imprenditoriale? L'idea alla base è che si può inseguire un sogno. Il mio sogno era quello di lavorare nel campo dell'arte, della musica, del teatro, che sono le mie passioni, e insieme all'ambito della formazione. Quindi questo progetto imprenditoriale combina la formazione, che è una cosa molto pratica, l'ingresso nel mondo del lavoro, con appunto il sogno di poter lavorare nell'arte, nella musica, nel teatro. Sara, hai una domanda per Alessia? Quali sono state le maggiori difficoltà, se ci sono state, dopo il tuo rientro in Italia? Maggiore difficoltà? Certo, sicuramente la burocrazia, estremamente difficile e complicata, molto molto lunga, marche da bollo, come dicevi tu, a tutto spiano. Questa direi la maggiore difficoltà. Insieme però a una grande voglia di fare e a incontrare persone che non aspettano altro che nuove idee per potersi agganciare, per poterti aiutare, per poterti supportare in questo percorso. Sara, forse la storia dell'Essa potrà essere di incoraggiamento anche per te. Sì, senz'altro. Speriamo. Alessia, 2 cose prima di salutarci. Innanzitutto, come procede il tuo progetto imprenditoriale? Molto bene, devo dire. Molto è dura. Bene. È dura. Si lavora tanto, tanto, tanto, però grandi soddisfazioni. Secondo luogo, quanto secondo te c'è bisogno di riportare la formazione e l'istruzione al centro degli obiettivi strategici in un paese come il nostro, con tassi di istruzione molto bassi, dove persino nella classe dirigente i titoli di istruzione scarseggiano o vengono clamorosamente millantati? Io sono dell'idea che bisogna puntare sulla formazione, bisogna puntare sull'istruzione, ma bisogna fare sì che la formazione e il proprio sogno, il proprio talento possano venire sviluppati, non formarsi in aree che non sono il tuo talento personale, il tuo sogno fin da bambino. Alessia, in bocca al lupo, abbiamo bisogno di giovani come te qui in Italia ormai. Grazie.